Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, perché hai convocato Filippo Aureggi in studio qui? No, c'è un problemino come sempre. Quando si girano gli strumenti, i fili sono un po' collegamenti. È bello perché Filippo Aureggi sono muti loro. I nostri tecnici sono... Bisogna dare il diritto paritario. Se lo citi, bisogna dare il diritto di intervenire e dire come la pensa del sottoscritto. Puoi fare anche il solletico, vedesse. No, ma io penso che questi computer hanno bisogno di degli sciamani. E lui è uno sciamano. Come risalgono a età preistoriche, vanno evocati con i fumi, gli spiriti, come gli indiani. Più sai che stai cercando l'acqua sotto il pavimento, ma, la danza dell'acqua. Ma la troverà, secondo me trova anche il petrolio, così poi sono 24 ore risolto i suoi problemi. Va bene. Abbiamo il petrolio sotto la sede del sole. Va bene. Allora io voglio ricordarti che oggi, e forse bisogna veramente pregare lui, poi ti dirò perché, oggi è il santo che a me, perché torinese piemontese, a te perché so che sta molto a cuore, è un santo di quelli a cui davvero dobbiamo molto, secondo me, perché oggi 31 gennaio è San Giovanni Bosco, quindi i salesiani, certo. Ecco, San Maria, io allora, ho fatto i salesiani, un modello tra virgolette vero, naturalmente dovunque gli uomini sono imperfetti, però insomma inutile negare che il complesso di opere per dare istruzione, un lavoro, eccetera, eccetera, ai giovani poveri nel Piemonte dell'Ottocento, lo so, un raccontino un po' da libro cuore. Io stesso, nella scuola elementare del mio quartiere operaio di fronte alla Fiat, ci veniva proposta un'immagine così oleografica che mi sembrava veramente la propaganda della Fiat, devo dirti la verità. Però, detto tutto questo, non si può negare che San Giovanni Bosco rappresenta, di fronte di tanti santi di cui non sappiamo nulla e ricordiamo il nome, e beh, insomma, delle cose concrete, per così dire. Molto, molto, molto concrete. Sì, è vero, era un po' un santo che dava un'educazione un po' soggetta al potere, infatti per questo piaceva molto alle istituzioni dello Stato monarchico, però detto questo i tempi erano quelli e però gli effetti c'erano, perché lo Stato all'epoca non si occupava dei bimbi poveri e così via. Allora, tra gli anniversari del giorno, nel 1951 oggi cominciava il primo festival di Sanremo e siamo sempre là, volevo dirti che siamo sempre là. Perché Sanremo è Sanremo. Ho capito, però vabbè, intoccabilità, adesso non voglio dire, non voglio toccare a chi i fan di Sanremo, però è una roba preistorica. Comunque vinceva Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori, ecco, sarebbe meglio ricordarla e farla finire lì per quello che mi riguarda. Nel 1990, pensa un po', come eravamo ottimisti, nel 1990 apriva il primo McDonald's in Russia, sembrava un mondo nuovo, adesso invece sembra un inferno. Però invece in questo giorno Mattarella diventa Presidente della Repubblica, il quarto scrutinio, decesimo presidente nel 2015, un Mattarella scelto da Renzi credendo che fosse una specie di tappetino, che invece secondo me riserva sorprese. E poi, insomma, perché avrai capito, anche se l'attenzione dei giornali sulla politica internazionale, dalle fregature che ci stanno rifilando, per dire niente manovre, ma sono fregature per alcuni italiani che ci rimetteranno dei soldi di liquidità delle imprese con la reverse charge su cui tu scherzi come azza, ma invece ci sarebbe da ululare se la fanno, punto numero uno. Punto numero due, con notizia del Messaggero che ci dice che si vota perché Andrea Bassi scrive 120.000 nuovi precari assunti nella pubblica amministrazione, come se non bastassero tutti quelli della scuola. È il segnale, è la carica che Renzi e i suoi suonano per andare all'incasso. Poi lo spread è arrivato di nuovo, 5 anni di record ieri lo spread sulla Spagna, Unicredit sta messa come sta messa, altri 5,7 miliardi il costo delle due venete e così via. L'Italia sta in condizioni economiche e finanziarie abbastanza precarie, e mi fermo con l'aggettivo perché non voglio fare il pessimista, eppure loro pensano alla trattativa sui 100 capilista bloccati. Allora a me questa cosa mi manda abbastanza al manicomio, a dirti la verità. Sì, vabbè, c'è sempre il solito slegame tra la politica chiacchierata, adesso c'è D'Alema che punta a fare il 10% con una dice nuova IPR, lista. Dice IPR. Sì, qualcuno dice il 14%, ci sono i retroscena, il segretario. C'è Berlusconi anche che dice che i sovranisti sono quattro gatti, cioè i suoi. Quattro gatti neri. Quattro gatti aggiunto, neri. Quattro neri. Gatti neri. Neri. Che lui secondo me non lo ha detto con il tono con cui il giornale che riporta in descrizione. Secondo me non voleva dire facile, i gatti neri, perché Berlusconi, come tutti sanno, porta. Fa dei riti apotropaici su qualunque tipo di cosa che porti male. Sì, non questo... credo che si riferisse perché è neri perché è di destra, no. Neri in quanto il gatto nero porterebbe sfortuna. Sì, lui è lì con... Quattro sfigati, ecco, diciamolo così, quattro adesso, sfigati. Adesso stai interpretando l'opinione del rinviato a giudizio. No, sto scherzando. Anche quello vuol dire che andiamo alle elezioni, però. Anche quello. Sì, cioè fa parte un classico, di un canovaccio. Beh, no, mi è pare, un mi pare sì. E poi voglio dirti il bene e il male dello Stato. Io a volte mi chiedo se non dovremmo fare una rubrica, perché da una parte il procuratore di Aosta arrestato perché insomma faceva favori a un grande imprenditore. Beh, si vedrà Oscar. L'accusa è questo, l'accusa. Però arrestato. E dall'altra, io da anni ne scrivo a favore, quindi per me non è una novità, ma magari per il grande pubblico se l'ha dimenticato, il sovrintendente di Pompei Massimo Osanna, che è uno di quelli a cui bisognerebbe srotolare il tappeto, fare gli Osanna, perché in due anni è riuscito a portare a casa più di 200 milioni già tutti messi a bando per mettere in sicurezza Caserta. E invece i sindacatini, sì, mi assumo la responsabilità di quello che dico, però più volte scritto su questo documentandomi, i sindacatini, siccome si occupano di faccende personali, allora gli mettono i bastoni tra le ruote per l'ennesima volta dopo lo sciopero del 26 e l'esposto denuncia che hanno fatto ai carabinieri contro di lui, ai carabinieri contro uno che dà efficienza e onore del mondo a Pompei, che era noto a tutti perché a luglio i sindacati avevano lasciato sotto il sole rovente fuori i turisti senza preavviso, e invece i sindacatini continuano e adesso chiudono anche il giorno che viene la commissaria europea. Però ecco, queste sono Massimo Osanna, lo Stato che funziona, il procuratore di Aosta insomma non tanto, dici. Non direi. Allora, ovviamente c'è Trump anche, che imperversa nel mondo, nel senso che tutti parlano di Trump, di questo bando ai musulmani, come è stato definito, il provvedimento che mette il bando a provenienti da 7 paesi, ovviamente a maggioranza musulmana. Noi abbiamo chiamato Luca Zaia, governatore del Veneto, buongiorno, presidente della Regione Veneto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. L'occhio dal Veneto su Trump, come è il suo occhio e il suo giudizio su quello che sta succedendo nel mondo? Anche lei dice ci vuole l'uomo forte, ci vorrebbe in Italia uno che fa cose simili? Ma guardi, sicuramente ci vuole un cambio di passo. Abbiamo capito che con il passo adottato fino ad ora dei risultati non abbiamo portato a casa. Con Trump possiamo dire che alcune cose sono accadute e stanno accadendo. Finisce la guerra fredda, questo è il primo dato concreto, il dialogo si è riaperto. Non abbiamo più un'amministrazione guerra fondaia, perché tutti si sono dimenticati di quanti casini abbiamo avuto con i due mandati Obama. E non ultimo la questione degli immigrati. Beh, con Trump comunque finisce l'era della globalizzazione, perché Trump è il primo presidente che parla chiaramente dei confini, dello Stato sovrano, uno Stato forte non può avere i confini, non può non avere dei confini. Pone la questione sul terrorismo islamico e dovremmo abituarci, questa è l'impressione che ho io, dovremmo abituarci a vedere i media, a vedere sempre i soliti esperti di tutto che attaccheranno visibilmente e quotidianamente ogni azione che farà Trump. Io non firmo cambiali in bianco per nessuno, però comunque ha avuto, diciamo, il merito di essere stato assolutamente coerente con quello che ha promesso. Sì. E spero che questo sia un bel macigno gettato nello stagno, in maniera tale che qualcuno apra anche la discussione. Insomma, si leggono molti osservatori internazionali che non sono di parte, ma che comunque vogliono avere anche una visione oggettiva sulla stampa straniera, e ne viene fuori che comunque si riconosce che questo cambio di passo forse è qualcosa, cioè, di buono. Però le reazioni europee, anche l'Europa, la cosiddetta famigerata Europa criticata, ha reagito in maniera molto dura. Sai che Alfano dice l'Europa non può giudicare Trump. Ma guardi, l'Europa è un cadavere eccellente. Cioè questa è la definizione più buona che si può dare di questa Europa. L'Europa è una realtà che ha dimostrato, guardi, voi fra l'altro ve ne intendete moltissimo, vi seguo, ha dimostrato ad esempio di non avere una dimensione politica rispetto alla gestione monetaria. Quello che ha fatto la Federal Reserve durante la crisi non lo ha fatto la BCE, o meglio l'ha fatta sempre da buona ultima. È l'Europa che ha dimostrato sull'immigrazione, nonostante il suo premio Nobel per la pace, che bisognerebbe togliere all'Europa, ha dimostrato di girarsi dall'altra parte e lasciare l'Italia letteralmente da sola. Ma se questa è l'Europa che dovrebbe dire qualcosa, io se fossi l'Europa, la signora Merkel e qualcun altro, Hollande eccetera, mi preoccuperei di una cosa, che la fine della guerra fredda è la fine dell'Europa, nel senso che Merkel è riuscita a posizionarsi dal punto di vista geopolitico semplicemente perché Obama non dialogava, gli Stati Uniti non dialogavano più con la Russia. Quindi l'Europa o si riposiziona nello scacchiere internazionale, l'Europa è finita. No, ma infatti Oscar, oggi anche Enrico Letta, intervistato a Avvenire, dice l'Europa faccia uno scatto in avanti, perché con questo filo Trump, però Alessandro, sì, ho capito, però Enrico Letta fa l'appello, tutti fanno l'appello, ma chi ci crede? Ma no, cioè, ma nessuno, la realtà però, che abbiamo sotto gli occhi in questi anni è di un processo decisionale europeo bloccato, paralizzato. L'esplosione che è avvenuta, ricordiamo, mi fa un po' ridere, i media europei alla fine sono insorti tutti perché la Merkel annunciando, ti ricordi, nell'estate 2015, no? L'accesso unilaterale, non ha concordato con tutti gli altri paesi europei ai profughi siriani e afghani, è successo l'esplosione. Certo, cioè siamo arrivati nel giro di 6 mesi ai muri, ai confini, e i militari ai confini intraeuropei che non si vedevano. Tutti i giornali a quel punto hanno scritto: bisogna governare questo processo, non ci si rende conto che non si può andare con gli accessi indiscriminati, fine crisi dell'Europa per via dell'accesso in connessione della Merkel. Sono gli stessi giornali che adesso scrivono Trump, ma insomma questo è fascismo, autoritarismo, dimenticando, voglio dire, anche l'espulsione di Obama, il muro di Clinton e così. È un po' singolare questa Europa. Questo ti dà l'idea che però nelle classi dirigenti, non solo la politica, alla fine si vive solo di reazioni, perché una linea condivisa è decisionalmente in grado di affermare la sua cosa. In Europa mi pare difficile credere che si manifesti a breve. Vediamo cosa scelgono i francesi tra poco. Però Zaia, resta da capire, cioè le mosse di Trump possono essere mosse, diciamo, almeno coerenti con quello che diceva in campagna elettorale, però la soluzione è quella di sospendere l'ingresso in America di persone che vengono da un determinato paese, così sembra un po' un voler colpire nel mucchio, perché Ma guardi, io penso che questa azione comunque abbia il merito di porre una questione. La stampa e la comunicazione a livello internazionale planetario sta parlando della questione statunitense, della questione islamica e del terrorismo islamico. E forse questa è una nuova formula per combattere il terrorismo islamico. Qualcuno dice: ma si incazzeranno ancora di più, passatemi il termine. Però è pur vero che abbiamo capito che, nonostante tutti i focolai che comunque Obama ha agevolato a livello internazionale, perché non dimentichiamocelo che nei due mandati comunque di guerra ne abbiamo viste tante, i risultati sono stati zero, tendenti a zero. E Trump pone la questione, a me non sembra irrilevante questo, vedo che tutti comunque stanno discutendo di questa questione, penso anche che bisogna avere rispetto per il popolo. Allora, se decidiamo che c'è il suffragio universale, se decidiamo che la democrazia è la cosa più bella al mondo, se decidiamo tutte queste cose, allora dobbiamo rispettare anche Rousseau. Rousseau diceva nel contratto sociale che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo. Il popolo ha delegato un presidente neoeletto che si chiama Trump ed è giusto che il popolo sia rispettato. In Italia invece, Zaia, mi permetta il termine, un gran casino politico. Ha sentito che Berlusconi avrebbe definito 4 gatti neri quelli che sono andati in piazza, i famosi sovranisti, Meloni, la Lega, Salvini, voi... 4 gatti neri. Guardi, io non faccio parte, come si può dire, dei salotti buoni o meno buoni, dove si discutono alleanze, queste robe. Però vedo una cosa, anche da cittadino, non solo da amministratore, che c'è un po' un cerimoniale di corte, no? Di dichiarazioni, controdichiarazioni, eccetera. La verità è che, come si dice, i figli non si scelgono, ma i compagni di vita sì, per cui i compagni di vita in questo caso in politica li scegli, al di là delle dichiarazioni di chiunque, li scegli sulla base di un contratto di governo, lo definirei così, che sia molto chiaro, molto ben allegato a un cronoprogramma, con delle azioni che non siano assolutamente confuse. I cittadini ne hanno piene le tasche di programmi con gli iscritti, con i condizionali, senza tempistiche. Oggi bisogna andare a concreto. Vuoi la flat tax? Devi dire sì o no, come te la finanzi e in che tempi. decidi che devi cambiare la politica sull'immigrazione, devi dire come la cambi, come la finanzi e in che tempi la realizzi. Guardate che Trump segna una direzione, è una direzione che va in maniera inequivocabile verso questo, questa meta, questo obiettivo. Qua bisogna però capire chi si può unire per arrivare al 40%, cioè nessuno. Ma guardi, io se penso star con una Berlusconi cosa. O no, o Berlusconi con voi o no. Penso una cosa, che ci voglia una piattaforma di programma, nel senso che un contratto di base, no? Perché è inutile andare dal notaio e capire chi firmerà l'atto. Cerchiamo di leggere il testo dell'atto. Il testo dell'atto oggi è un programma. Questo paese ha necessità di azioni incisive. Guardi, anche l'uscita dall'euro, che io condivido, l'uscita dall'euro non può non essere abbinata, ad esempio, dal fatto di far capire ai cittadini che riforme bisogna agganciare eventualmente per la messa in discussione della moneta unica. La sovranità monetaria non prescinde dal fatto che bisogna fare anche delle scelte poi a livello di paese che si definisce il sovrano. Quindi sono tutte delle cose da definire che dovranno essere definite. Sicuramente non si può andare al voto senza averla definita. No, chi ci sta, lei dice. Io mi auguro davvero che prevalga questa ragionevolezza che Zaia ci ha esposto, cioè quella di definire cose concrete, perché sono molto d'accordo che, per esempio, pettinare o evocare agli occhi degli italiani il fatto che è una bacchetta magica tornare alla lira, beh, allora bisogna spiegargli quanto è complesso e cosa bisogna fare per evitare che poi i mercati ci travolgano sul debito pubblico e così via. Quello che temo, Zaia, è che prevalga una grande, grande superficialità, perché questo è quello che temo. Lei ha ragione, Giannino, c'è sempre il rischio della superficialità, però noi in Veneto comunque abbiamo anche un altro ulteriore antidoto e andremo a celebrare il nostro referendum per l'autonomia. Glielo dico perché ha parlato di debito pubblico e una delle proposte che io voglio fare è quella di regionalizzare il debito pubblico, perché a questo punto andiamo alla conta e ci guardiamo nelle palle degli occhi, come si dice dalle mie parti, no? Lei conferma la vecchia impostazione per cui sarebbe anche disponibile, in teoria, stiamo parlando di una cosa su cui molti ci boccerebbero perché sono da sempre contrari a questo tipo di misura di federalizzazione, però lei sarebbe confermerebbe la vecchia impostazione storica per cui pur di prenderne ciascuno il suo, il Nord potrebbe prendere un po' di più del puro riparto proporzionale o di quello che ha fatto direttamente, giusto per far capire. Ma guardi. Guardi, la mia idea è questa: celebriamo quest'anno assolutamente il referendum per l'autonomia, la prima volta nella storia della Repubblica Italiana dal 48. E fatto questo, per la base del negoziato non ci tiriamo neanche indietro ad affrontare il tema della regionalizzazione, come dice lei, con i presupposti che dice lei. Diciamo che siamo anche disposti a fare un ragionamento da separati in casa. Dateci i nostri oneri e noi ce li portiamo a casa, ma non rompeteci più le scatole. La regionalizzazione del debito pubblico è interessante. Intanto Zaia la ringraziamo. Grazie a voi, grazie buon per lavoro. Essere stato con noi, Luca Zaia. Tra l'altro, Oscar, sai che Maroni, altro governatore della Lombardia, è proprio partito ieri dagli Stati Uniti e per andare negli Stati Uniti da Trump, vedrà Trump. Beh, lui ha più volte postato le sue fotografie dicendo ero quello tra chi aveva in Italia i rapporti storici con lui. C'è la famosa foto Salvini-Trump, poi come dire in qualche modo smentita. Maroni prima. Ci vuole mettere il cappello su Trump. Maroni prima. Speriamo che abbia ragione la stampa. Guarda, la stampa oggi, Alessandro Barbera, che però essendo ragionevole secondo me avrà torto, che dice che invece di levarci la liquidità alle aziende fornitrici, può essere che dice che Padoan dice niente anticipo sulla pensione. Io, visto che prima lo citavi, io non credo che avverrà perché sarebbe impopolare, quindi non lo faranno mai, però vediamo. Intanto 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta, il filone è sempre quello su Trump. Tra poco avremo invece l'onorevole Shawki, Partito Democratico musulmano, quindi immagino che sarà abbastanza arrabbiato sulla linea non Zaia nei confronti di Trump. State con noi. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Ma dai Giannino, non esagerare, coi Doors hanno riproposto un blues tutto sommato normale. Vabbè. Il blues dei Doors. Vabbè. Signori. Qui siamo, allora, niente. Dai, allora, dillo. No, io rispetto la più di tutti, però, cioè, vabbè, allora, una le spara così, vabbè, allora, d'accordo. Certo, non è un reggae di Bob Marley, capisco. No, ma... ma io devo rispettare anche queste cose qua. Adesso qui si confonde chi si ispirava ai testi di Aldous Huxley con il blues. Comunque, ragazzi, ognuno giustamente si fa le sue... Stavo dicendo pipe, ma non è questo il punto, perché insomma, sentite, non si può pensare che Jim Morrison non abbia un ruolo di stella di riferimento nella storia della musica, perché è così. Rassegnatevi, rassegnatevi. La trasmissione finisce qui e diamo spazio al Blues dei Doors. Sì, al Blues dei Doors, va. Blues. Caro Oscar. Vabbè. Ringiovanisco, poi capisci, poi dicono che vogliamo. Certo, voglio dire, adesso scusate, cari fan di Sanremo, mettetevi una mano sulla coscia. Vabbè, se non vorrei, dai, ma no, tutti lì pronti a squittire di fronte a Carlo Conti. Squittire. Manuela, hai visto il povero topolino? Hai visto? Sì, mamma, ragazzi, in Cina hanno trovato Manuela, è una notizia che interesserà anche a lei, Manuela da Milano, ascolti un topolino. Po'. Hanno trovato un topo che rubava formaggio in Cina, la notizia è vera. No, se menti, che falso, cosa vuoi che faccia un topo per hanno vivere? Hanno trovato un topo. Devi andare a Ocean, che l'hanno deve fare? Quello messo fa il topo. Alla gogna, cioè, c'è con le zampe aperte a Sant'Andrea, croce di Sant'Andrea, gli hanno appeso al collo, non lo farò più, il cartello rieducativo come la rivoluzione culturale cinese. Ma sti cinesi, voglio dire, sono proprio cose da matti. Sempre meglio che se lo mangiasse. Manuela, buongiorno da Milano. Buongiorno a tutti. Io volevo intervenire sulla questione di Trump. Allora, sì. Innanzitutto io sono favorevolissima alla politica di Trump, questo si era capito. In secondo luogo io sono ancora più estremista per quanto mi riguarda. I musulmani non saranno mai cittadini come tutti gli altri, nel senso che non saranno mai fedeli a nessun tipo di costituzione, ma saranno sempre fedeli al Corano. Poi ho sentito che tra poco avrete Chauki, che è musulmano, e vorrei che voi chiedeste a Chauki da parte mia di citare in italiano possibilmente la sura in cui si dice date al califfo quello che è del califfo, date all'imam quello che è dell'imam, un principio che nel Vangelo è stato stabilito più di 2000 anni fa da un certo Gesù Cristo. Sì. Quindi il cristianesimo già nelle sue origini. Ma perché dovrebbe citarcelo in italiano? Perché signor Chauki, perché... l'onorevole Chauki è italiano, di passato. Sì, ma è di religione musulmana, quindi credo che abbia studiato il Corano, quindi vorrei sentire citato in italiano, di modo che anch'io ignorante lo possa capire, questa sura del Corano in cui si santifica la distinzione tra Stato e Chiesa, che nel cristianesimo è presente fin dall'epoca di Gesù Cristo, cioè 2000 anni fa. Finché questa sura non mi verrà citata, per me i musulmani non saranno mai cittadini di serie A, rimarranno sempre un pericolo. Sì, rimarranno sempre un pericolo. Allora, un'altra cosa, io vorrei vedere una chiesa costruita alla Mecca, visto che ci sono moschee clandestine costruite a Roma. Sì. Io voglio vedere una chiesa costruita alla Mecca. Va bene, ha messo due cose. Manuela, si fermi, ha messo due cose. È un fiume in piena. Insomma, va bene, ha detto due cose che peraltro l'onorevole Chauki ha ascoltato, perché è in diretta con noi. Onorevole Chauki, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha colto tutto dell'intervento di Manuela, la sura del Corano. La sura. Adesso non fa il Milano. Milano. Esatto, dai. La sura del Corano. Mi vuoi inchiodare come il topolino in Cina. La sura. Sì, ho sentito le ultime battute. Quello che voglio dire è che se dobbiamo dibatterci su quello che è scritto nei testi sacri non ne usciremo più, e quindi a me non mi va di avviare queste partite a ping pong andando a vedere chi e quale testo sacro scritto secoli fa abbia più o meno riferimenti violenti. Quello che è importante oggi è come i musulmani vivano il rapporto con la loro religione e soprattutto quanto vivano questo rapporto in modo laico, rispettando la libertà di tutti, inclusi gli stessi musulmani che la pensano diversamente. Questo è il primo aspetto. Il secondo, noi potremmo ovviamente raccontare le tante realtà di discriminazioni presenti in alcuni paesi a maggioranza musulmana, ma se dovessi citarvi per esempio il mio paese di nascita, di origine, che è il Marocco, dove c'è una almeno oltre 10 cattedrali, ci sono sinagoghe, c'è cioè la comunità ebraica orgogliosa anche di appartenere al Marocco, e quindi non dobbiamo assolutamente generalizzare. Diciamo, non in tutti i paesi. Ci sono casi di assoluta discriminazione, e va combattuta insieme, ma come ci sono storie bellissime di convivenza millenaria, e questo non possiamo assolutamente negarlo, perché faremo un torto alla verità e alla storia che ci ha unito nei secoli. Senta, Shawki, Trump, per lei è un bando ai musulmani? Perché dall'America dicono no, è un bando ai cittadini di paesi che sono finanziatori, compromessi col terrorismo. Poi certo sono musulmani questi paesi. A cui lista di amministrazione repubblicana poi corrisponde a quella che era stata fatta dall'amministrazione precedente, cioè paesi in cui non c'è l'ambasciata americana per non esercitare un controllo. Ripeto quello che dice l'amministrazione. Certo. Non ho detto che... Lei da musulmano come la vede? Ma è un bando sicuramente ai musulmani, e soprattutto ancora peggio alle vittime del terrorismo che l'Occidente, gli Stati Uniti in primis, hanno voluto combattere giustamente in quelle aree. Cioè, per la prima volta noi assistiamo a una guerra legittima contro l'ISIS, contro il terrorismo, ma contemporaneamente chiudiamo le porte di fronte a quelli che fuggono da quelle guerre, da quelle discriminazioni e da quelle atrocità di cui l'ISIS è reso protagonista, colpendo innanzitutto le minoranze religiose, ma colpendo anche gli stessi musulmani che non la pensavano come loro. Quindi è un bando più che ai musulmani, alla civiltà dei diritti umani che l'Occidente e gli Stati Uniti in primis hanno difeso e sostenuto, e credo che è un grave colpo anche alla credibilità con cui poi un giorno noi andremo a dire a quei paesi dovete essere più rispettosi dei diritti umani. È un bando anche al diritto internazionale. Gli Stati Uniti hanno firmato la Convenzione di Ginevra che obbliga tutti i paesi ad accogliere i rifugiati, e quindi credo che la migliore risposta sta arrivando innanzitutto dagli stessi diplomatici americani, dalla stessa società americana, che è una società per definizione plurale, mista, dove all'interno abbiamo persone di tutte le religioni, dove nella stessa amministrazione abbiamo conosciuto americani che erano orgogliosi di essere americani proprio perché in quel paese, e quel paese ci insegna e ci ha insegnato che insomma, intorno a dei valori di civiltà tutti possono sentirsi sì, orgogliosamente appartenenti, cioè, lei dice, a quella la risposta a Trump viene soprattutto dall'America democratica, questo mi sembra assolutamente di capire, sì, e direi stiamo attenti qui a non scimmiottare, come qualcuno già intende fare, questa deriva trumpista che insomma ha tutt'altro che anche valori di destra o altro. Infatti, siamo davvero all'idiozia io più totale. Faccio solo un'osservazione, vede, lei appunto adesso ha detto idiozia eccetera eccetera, ma vale anche per gli altri. Io sono invece convinto che il segno proprio dell'epoca che viviamo, che metto insieme fenomeni molto diversi, la vittoria di Trump completamente inaspettata perché dipinto come il pazzo che mai avrebbe vinto eccetera, invece ha vinto le elezioni, dall'altra Brexit mai avviene, e invece i britannici, che stanno peggio, hanno detto no all'elitismo delle tecnocrazie europee, almeno le definiscono così loro, e quindi ecco lì. Andiamo a vedere la situazione in Polonia, Ungheria, Olanda, Francia si vota tra poco, eccetera, eccetera. Io vedo un fenomeno, cioè, okay, voglio sapere solo lei cosa ne pensa, sull'immigrazione, è proprio l'argomento, perché anche per Brexit è stato molto più questo argomento, il controllo degli immigrati, piuttosto che l'economia. Allora, è l'argomento in cui la radicalizzazione opposta dei modelli, di chi dice, da una parte, ci sommergono, ha sentito il tono della chiamata precedente, sì, no? Ecco, dall'altra parte, c'è chi dice, la vostra parte, la sua parte, ma c'è chi dice, non l'ho detto lei, c'è chi dice, quelli sono fascisti, eccetera. Questa radicalizzazione, la mia sensazione, è che leva ogni terreno comune alle politiche, si cambia ogni volta di 180 gradi e si dà l'idea a livello internazionale che non sappiamo dove andare, si creano fenomeni incontrollabili, veda quello che è successo dopo che la Merkel ha detto apriamo tutti, benissimo, l'Europa non ha retto e in 6 mesi abbiamo fatto passi indietro che non avevamo mai fatto in 50 anni in Europa. Allora, perché non essere un po' meno radicali l'uno nei confronti dell'altro? Perché l'elettorato moltiplica queste scelte radicalizzazioni, vi vedete come tribù di barbari uno rispetto all'altro, non ma lo so. Io Giannino, vede, condivido al 100% quello che lei dice. La linea di Minniti racconta oggi di un approccio totalmente diverso che io ho sempre sostenuto, cioè legalità e accoglienza e diritti umani possono andare tranquillamente insieme e anzi sono nel bene di una buona integrazione. Qui però, rispetto agli Stati Uniti e alla deriva di Trump, stiamo parlando di lesione di quelli che sono diciamo, principi fondamentali della nostra civiltà occidentale e rispettosa dei diritti umani. Quindi sono d'accordo, cioè migliore, diciamo, per levare anche terreno fertile ai movimenti di estrema destra, è chiaro che noi dobbiamo anche impegnarci molto di più, e parlo da persona di sinistra, in quelli che sono i principi appunto della legalità, della sicurezza, a tutela anche della stragrande maggioranza di immigrazione che vive, lavora e partecipa alla nostra economia. Sì, un po' meno della radicalizzazione a cui però, faceva... Questo è un lavoro che va fatto insieme. Il problema è che il nostro interlocutore oggi, che sia Trump o che sia la Lega Nord per altri versi, sono interlocutori che non usano proprio il buon senso, purtroppo, ma cercano facile consenso su qualsiasi vicenda di difficoltà, di conflitto sociale che ci sia. Allora diventa anche complicato confrontarsi con chi fa della paura il suo unico elemento di campagna. C'è un ascoltatore, Antonio, dalla provincia di Lecco, che così siamo in rapida conclusione. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sul dosso sto con il cardinale Giannino, però Sanremo, non c'è dubbio. Perché critica Sanremo, vabbè, dai. Parlando di Trump, io direi che, se andiamo al punto, ha fatto un provvedimento sbagliato, politicamente discutibile, e che ha creato caos. Quindi anche questo bisogna dirlo. Poi i suoi tifosi diranno fa quello che ha detto in campagna elettorale, ma lei pragmaticamente dice ha creato ma poi ha 4 anni per poter mettere in pratica, quindi c'è veramente una sera prestazione l'ansia di prestazione, perché finisce per rendere meno credibile anche una linea di ragionevole restrizione che dovrebbe essere fatta diversamente, che può essere fatta anche nel corso degli anni del suo mandato, senza sti casini delle green card, con i passaporti e con gli aeroporti bloccati. Vabbè. Comunque, onorevole Sciauchi, la ringraziamo, dobbiamo chiudere qui, caro Oscar, con Peter Pescapè regia, i nostri Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Questo circolo di ascoltatori di Sanremo, e noi ci ritireremo nel nostro bunker per sentire Doors, altro che Carlo Conti. E anche Bob Marley. Dai, a domani. Anche Bob Marley.